abbiamo visto che c'è dei salatori d'estate, però c'è freddo, ma c'è un meno di umidità. Sì, ok. Facendo 2 più 2, 4, è così. E il mio segnale con quello che dicevi tu. Io dico che da un paese che abbia questo segno, questa portante. Non lo so. Segnali così io ne ho tanti, Giulio, non ti posso dire, io nella posizione in cui mi trovo lo sapete. Siete tutti molto alti, soprattutto in questo momento che l'antenna è molto alta, siete molto con segnali altissimi, quindi per me 9.25 è un segnale di Sassari, mi auguro. Magari qualcuno che modula anche con noi, non lo so, però vabbè, dai. È durata poco, pazienza, speriamo che non vi succeda perché no, non va bene così, dai. Vado a portare il cane, Giulio, ti auguro buon proseguo in quel CEO, a te, a Gianni, e che fosse qua su 10. A dopo. Ok, ma già lo sappiamo, va. È quello che è andato male, che ne abbiamo anche parlato tempo fa, che è un bambiocco. Vabbè, ok, dai. Non andare a portare il cane, già c'è te, ora. Appunto, perché 2 più 2 fa 4. Il tuo segnale, che io ho sentito tante volte, il suo è come arrivava a me. E dunque 2 più 2 fa 4, ed è quello. Vabbè, tu hai studiato il geometra come me, quindi calcoli sai fare. Se 2 più 2 fa 4, facciamo così allora. Ci sentiamo dopo, giù, dai, a futidini. Vabbè, ma poco, anzi, in due non ma coppia, ma non di tutta la famiglia. A dopo, ciao ciao. Ok, ciao, qua, ciao. Guardi, abbiamo addormentato, tu sì. No, io te l'ho mandato il segnale, ma poi tu non mi hai dato risposta. È perché ti ho detto, non è carico ancora il telefono. Ho controllato e non c'era appena il 2%, ti puoi immaginare di ricarico. L'avevo appena messo già, sta caricando. Te lo mando senz'altro, fa un po', lascialo, riprendo un pochino di carico, dopo ti mando il nome. Ma l'hai ricevuto il messaggio mio? Non lo so come sia, adesso guardo. Aspetta un attimo che esco fuori, che vado. Perché l'ho attaccato in una parte dell'altra stanza, hai capito? Perché qua sono tutti occupati le prese, nonostante che ce ne sono uno, due, tre, queste sono qua. E sono tutti occupati. In uno c'è il baracchino, in uno c'è la bagiù di mia moglie, nell'altro c'è una lampada attaccata, sì che se ne trovo una si spegne la lampada ad esempio. Aspetta che vado e vedo un po'. Se c'è un po' di carica ti mando il nome. Sì, è così Gianni, ho ricevuto un messaggio, sì è così. Quello che stai pensando tu e sto pensando anch'io, uguale identico, perché 2 più 2 fa 4. Sia per il segnale che riceve Claudio, quello che ricevo io e quello che ricevi tu. Io l'ho capito subito che era così. Appunto, è un bambiocco, già lo sappiamo, è un mezzo handicappato, già lo sai. Perciò ne abbiamo parlato diverse volte. Non solo con te ma anche con altri e tutti lo conoscono, io di persona non lo conosco e non ho nessuna intenzione di conoscerlo perché intanto a me gli strumenti non mi piacciono. Ma per quale motivo deve mettere la portante? Non ho capito. Perché io avevo fatto un'osservazione, più che lui c'era una volta l'avevo fatto, no? Evidentemente si è risentito, anziché imparare a vivere evidentemente è peggiorato. Vabbè, comunque, ma gli direi che è mai denuncia Edu, tutta la sua famiglia e tutto il paese Burgiuio, vai, anche se non c'entrano niente. Lasciamo perdere. Non lo so se sia d'accordo che gli avesse in mano l'apparato. Gianni, è un mentecatto, già lo sappiamo, ne abbiamo parlato, tra amici ne abbiamo parlato, e a me me l'hanno riferito, io non lo conosco, però mi hanno benissimo detto che è una specie di handicappato, anzi, un po' gassai handicappato. No. Non usarci, questo non penso, però non siamo manco sicuri, magari è possibile anche che qualcuno si sia messo in mezzo e abbia lo stesso segnale, quello non lo puoi sapere giù. Ma quando si è in macchina basta fare un salto. Poi, io ripeto, nome non ne ho fatto e non ne farò mai, però se permetti, in tutti gli anni di esperienza che ho in frequenza e i segnali li conosco tutti quanti a viso all'occhio. Ripeto, e facendo il calcolo dalle varie stazioni che tu mi hai dato il segnale e più mi ha dato quello Claudio, e considerando il mio, stavetto che sono solo tre stazioni che mi arrivano con quel segnale. Però c'è una differenza pure tra te, perché a te uno con quel segnale e a te ti arriva 9-10, ti arriva, a me mi arriva con quello stesso segnale, però a te ti arriva 9-10, ma questo invece è inferiore, e dunque facendo bene i calcoli abbiamo capito chi è. Anche a Roberto arriva 9-25. Appunto, anche a Roberto, appunto arriva anche a Roberto, perché non lo so, è solo lì nella parte alta che arriva così. Non so, io non posso dire niente, perché 9-25 per me è un segnale che arrivano tutti, arriva Gianni, attaccato, vabbè, Marco è 9-30 abbondante, arriva Tino, arriva Antonio Riserva, arrivano tutti, devo fare tutti i nomi, arrivate tutti con i segnali oltre 9-20, solo tu sei 9-18, 9-20, modulato. Quindi per me è un segnale normale, cosa devo dire? Non lo so. Vado, a dopo, ciao Giannetto. Ok, qua. Vabbè, quando sì, d'accordo, io ho capito che i segnalatori sono quelli. Però tutti i nomi che hai fatto, a me non è che mi arrivano con quello stesso segnale, o Santiago 7, no? Ed è cosa sempre quello qua. La geometria la conosco, non è che non la conosco, per cui abbiamo capito benissimo. Io stanno chiamando Torre di controllo, avanti. Per me Torre di controllo mi può chiamare solo quel peloso di Fortunato. Ciao, Claudio. Stavo dicendo, stavo salutando, però è modulato il tuo. Saluti alla ruota, una buonasera. Ciao Fortunato! Fortunato! Mi hai sentito, di rientro, sì. Dovevo farvi da io, a che farvi da Dudu? Un altro mi c'è che piscita veloce. Ciao Fortunato, un abbraccio, sto uscendo a portare il cane. Ah, non è che il cane che sta portando a te, Claudio? Più o meno, dai Fortunato, più o meno. È una tazza che già traina. Ok, ti faccio salutare dagli altri, ti devo lasciare. Un abbraccio grande, grazie per essere entrato a salutare. Avanti Giulio. Ok, ciao Fortunato, ben ascoltato, sempre alla grande tu. Avanti Gianni, più Fortunato. Io ho ripreso perché ha detto saluto tutta la ruota, io ho ripreso. Non perché sono Jack lo svelto, come mi state nominando. Ciao Fortunato, ben sentito. Avanti. È in galleria, non ti può sentire. E riprende adesso qua, questo sottopassaggio dalla camionale. Cappa dai, adesso mi senti Fortunato, buonasera. Sì, Gianni, ok, cappa, a 100%. Finito anche a Giulio. Dai, riprendete. Tanto stai già vado alla bassa. Avanti Giulio. Ok, Fortunato, sono sempre alla grande qua, dai. Man mano che fai strada poi ti sento anche meglio. Comunque ti sento molto molto bene. Sì, è così. Adesso sta telefonando, per cui lasciamolo telefonare già, avanti. Vabbè. Andava bene. Adesso siamo tranquilli, dai. È tutta pulita la frequenza, manco male. Che ore sono giusto? 7:30. Le 8 meno un quarto precise. E alle 8 chiudo, dai, così vado a portarci il cane. Perché poi le varie telefonatine, questo e quell'altro, mi tengono occupato, dai. Porto il cane verso le 8. E poi ritorno a casa. Ok già. Certo. Cioè no, è normale, bisogna portarlo, ci mancherebbe altro. E allora, come ci va? La vita da pensionata, come te la stai passando? Io benissimo, ho sempre occupato al 100%. Ho sempre da fare giù, sempre. Non c'è giorno che non abbia da fare, sempre pure una parte, pure all'altra, poi col fatto che adesso c'è l'allevamento dei canarini, mi devo dedicare molto alle gabbie, pulirli, farli, cambiare mangime. E passo già un'oretta, la passo così la mattina. Poi esco, faccio la spesa, vado a fare documentazioni, vado a fare pagamenti di condominio, di quello, dell'altro, sono sempre occupato. le amicizie ogni tanto vengono qua a casa, qualche pranzo insieme, eccetera. No, già, grazie a Dio, io me la passo bene, dai, tranquillo. Ok, beh certo, una vita un po' movimentata nonostante tutte le restrizioni già, è meglio per te, così almeno ti sbagli meglio e il tempo ti passa più in maniera più benevola, certo, ma va bene così. Vediamo se ha finito di telefonare Fortunato. Fortunato? Sì Giulio, finita adesso, da parte mia, alle spalle di Monte Oro. Un attimo, ok Fortunato. Bene, c'è stato un break avanti? Capoletto, ciao Giulio, ciao a Gianni e ciao anche a Fortunato, non so se mi sente lui, comunque Franco l'ha sotto. Avanti Giulio. Ciao Franco, salutoni, ben entrato, sì, c'è Fortunato che sta viaggiando, probabilmente sta rientrando alla base dopo una giornata di grande lavoro, certo. C'è anche Gianni di Dupiorù che ti manda avanti, avanti Gianni. Scappa dai, ciao, mi sentite anche a te Fra, stavo quasi per chiudere perché fra poco viene l'ora fatidica a portare giù il cane e l'overe mi chiama. Un altro po' mi trattengo, dai Fra, avanti. Capo, me ne sono dati tutti. Fortunato, mi senti a me? Mi arrivi un segnale di 5, scendente, diciamo, con picchi a 6, dai, mi arrivi. La radio è buonissima. Capo, Fortunato. Mi ha fatto piacere sentirti comunque. Dove stai andando? In barca da Porto Torres? Capo. Va bene, avanti Giulio. Certo. Sì, certo, sta lavorando ancora. Questi sono i sacrifici della vita, purtroppo, fortunato, una ci puoi fare. Invece c'è chi vive al baffo, senza fare niente in tutta la vita, ma comunque, un po' le faccio anche a loro. Noi abbiamo lavorato, tu stai continuando ancora a lavorare, io ce ne ho fatto oltre 60 anni, per cui credo di essere arrivato. Avanti Gianni. Io sono tutto a pezzi dal lavoro, dai. Sono diventato uno zombie dal lavoro. Operazioni, questo, quell'altro, quello è tutto dal lavoro, il femore che si è consumato, tutto dal fattore del lavoro. Vabbè, mi tocca recusarmi pure a me, avanti Fra. Vabbè Gianni, diciamo che un po' tutti ne usciamo un po' usurati. Ne usciamo dal lavoro una volta che si va in pensione, purtroppo è così. Io ero anni che viaggiavo sui carrelli senza ammortizzatori, senza niente. Fortunato mi sa qualcosa, che mi conosce qualche annetto, mi conosce, vero Fortunato? Sono contento per te Fortunato, allora, caspita, così anche tu sei arrivato al traguardo. Al traguardo della pensione, così quello è importante. Già te lo meriti, Fortunato, hai lavorato anche tu una vita, per cui è giusto che ti godi una pensione. Ma comunque cosa vuoi fare? Io ho sempre sentito dire che il lavoro non uccide, no, distrugge. Io dico solo che distrugge e basta, tutto lì. Io l'ho preso così, poi distrugge nel senso che poi ognuno di noi qualche acciacco se lo prende sempre, no? Dovuto proprio al sacrificio di una vita intera. Comunque, va bene lo stesso. E anche soddisfatti soprattutto di aver contribuito non solamente alla famiglia, che era il nostro dovere, ma anche alla nazione, perché abbiamo pagato tante tasse soprattutto. E vabbè, pazienza, dai. Comunque, la nostra vita è andata così e va bene lo stesso. Avanti, ancora fortuna. Fortunato, mi vedi la vista, ti regalo una gascetta e la metti. Paolo, se ne sbagli, vai, ma non a te. Mi fa qualcosa, cosa pensi che ce la faccia la barba? Il spugliatore a casa. Non taglia, Gianni, non taglia. Io il primo giorno che ho visto Fortunato avevo, forse neanche 30 anni. Ero lì che a Porto Torres, era d'estate, si è tolto la maglietta e mi sono spaventato. Se ti voleva Falcone, guai. Mamma mia! Claudio! Ufa. Infatti, tutti, in Italia se ne voleva cavare la maglietta, adesso se ne la cavava e non ce la bisognava nessuno. Ero con Michele, mi ricordo, cazzo, come oggi, poi Fortunato già lo sa, certe risate ci facevamo, era una cosa micidiale. Ha detto, beh, va giù gas, io lo vedo che va via la maglietta, ma neanche i gotti, in più sotto va via la belliccia. Fortuna Dignano, quelli lì sono tutti gli effetti dell'uomo vero, è il look dell'uomo vero, Dignano Fortuna. Minchia, quindi caput, anche giù. No, Giulio, ti sto dicendo che se uno si metteva a rasare a Fortunato tra le spalle e il petto, ma tutto completo, sia una vedda barrucca, futidini. Fortunato, dici che è tutta roba preziosa, al limite se un giorno decidi di rasare ti puoi fare un cuscino, ridalo. Ebbè, c'è curioso che lo mangio io. Lo sai che ti voglio bene. Scherzavamo sempre su questa cosa, minchia. Vabbè, dai, faccio girare la ruota, avanti, doppio room, sono rientrato comunque, dai. Dai, se sei rientrato io sto andando, dai, vi saluto tutti cordialmente, grazie per il QSO, buona serata e buon continuo. Ciao! Ciao Gia, ciao, vai fra. Ciao, ciao Gianni, ben ascoltato. Avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, dai, a domani, se coincide, anzi facciamo in modo che coincida. Ok, ciao di nuovo, avanti Fortunato per Gianni. Non mettendo nessuno gli occhi, no. Chi era quello che ha parlato insieme a Fortunato? Sono andato insieme. Chi era? Avanti l'amico, forse può entrare. Io sono, buonasera a tutti, non mi sentiva nessuno. Sì. Il nome? Antonio, sì, ciao a tu. Stavi parlando, forse lo senti tu a Fortunato, perché avete parlato un po' insieme, dunque ho capito a Fortunato, ho capito, non capivo che eri tu. Va bene, Antonio, salutoni anche a te. C'è Fortunato, poi c'è Claudio con lui, Gianni che è appena andato via, Franco Lassoso. Vai perché vuoi, Antonio. E beh, Antonio, non riprendi adesso. Dai, ci sentiamo dopo che mi sta arrivando le pizze, dai. Ah, ho capito, buon appetito allora Antonio, ci sentiamo, dai, alle prossime. Avanti Franco. Chiappa, ciao Antonio, buona pizza allora, ci sentiamo. Allora Giulia. E allora Fortunato, Roby all'alba, se puro. Andare, almeno ci siamo arrivati. Chiappa. Io l'ho preso al volo, l'ho preso quel treno. Neanche fermato c'è a prendermi. Va bene, dai. Avanti, qua. Sgancia, Fortunato, già siamo qua, non c'è problema. Anche io stasera sono di fare pizza, quindi arrivano alle 8:30, non vanno un quarto, perciò rimango qua in radio. Figura di Dio, tu hai biliato camminando in Rodreno, io mi sono bugiato da di prima in Rodreno, quando è partito l'ho appoggiato, fra, figura di Dio. Avanti, Marco giù. Ok, e io mi sono seduto 15 anni fa, per cui sto viaggiando, sto viaggiando a Comolo, così va bene, dai, io devo scendere per la cena, che mi hanno già sollecitato. Ci sentiamo, ciao Claudio, grazie per la chiacchierata, a domani, ciao Franco, ciao Fortunato, se mi stai ancora ascoltando, buona continuazione di lavoro, ci sentiamo alle prossime, spero molto presto. Ciao Antonio, buona cena anche a te, visto che ti stai mangiando la pizza, e ciao Gianni se sei ancora all'ascolto. Saluti a tutti, passo il microfono a Franco, ascolto il finale e poi chiudo. Vai Franco. Va bene, giù. Ci sentiamo allora, dai. Buona cena, buon tutto, ce la ascoltiamo alle prossime. E avanti Claudio. Ciao Giulio, buona serata, buon tutto, alle prossime. Grazie delle due chiacchiere, dai. Alla prossimina. KK, Gianni è andato via e Antonio c'è mangiando della pizza e allora è così, va bene. Così è qua. Però non bisogna svolgere anche così. Non ti piglia nessuno. Hai aumentato di segnale qua, non so io, ho tirato sull'antenna di quasi 6 metri, l'ho messa dove c'era il traliccio prima, il sistema, traliccio non era, il sistema delle direttive, l'ho messa lì, sei aumentato di 2-3 punti sullo smitter. Davvero? Pure sono sempre allo stesso livello di cose. Poco fa mi ha fatto uno scherzetto questa radio. Ho mollato, stavo parlando, quando sei entrato tu, è stata silenziosa, non sentivo più a nessuno. Controlla il livello dello squelch, fa. Una volta mi tendi, mi ha fottito a me. Ce l'avevo a 2 e mi ha fatto così lo stesso. No, beh, ho più ricezione, fra, capito? Avendo più ricezione ricevo molto molto meglio. Anch'io qualche punto l'ho aumentato da Giulio, un po' da tutte le parti, da te non lo so, comunque l'antenna è molto più alta, quindi è molto più visiva nei tuoi confronti, non so se ti sarebbero sempre lo stesso. Ma a me diciamo che sei in ombre, sì, mi sei sempre arrivato così, anzi, una volta mi arrivava anche di più, non so il motivo. Adesso invece sei 9 spaccato. No, tu sei 9 qualcosa. 9-2, 9-3, dai. Superi il 9 comunque, di poco ma lo superi. Allora Giulio arrivo di più. E evidentemente tra me e te non c'è niente da fare. Comunque è molto più alta, è molto più. Si vede molto di più, dai. Infatti. No, qua lo scratch non va in AM, ma solo in FM. No, è vero, c'è C80 tu. No, la 440 me l'ha fatto una volta, c'avevo il livello dello scratch a 3, non me ne ero accorto. Ha giumato un BTT e non si intendeva nulla. Ha detto, ma un radio è fatta, c'è radio. Allora è fatta, si è arrivata. E invece guardando lo squelch ho visto che era 3. L'ho girato ed è apparso il QRM. No, ma a me me l'ha fatto poco fa, Ho fatto tutto silenzio. Perché è andato a zero lo smitter. Alla fine ho detto sì. Ha schiacciato e ho sentito più parlare. Non so che difetto possa essere. Peggio Baleda, lui è Massus, Gianna Giovaccio. Ehi, radio di Luciani, lui. Tu immaginate che ne ho venduto 3 io. La quarta è in partenza, molto probabilmente, scusa che sto pulendo il microfono, che a me le dittate non mi piacciono con l'alcol. La quarta è in partenza. C'è successo qualcosa? No, pulendo il microfono ho schiacciato il lock. Perché pensavo che era mancata la corrente, il barrigene è mancata la modulazione. No, che si gioca, intendi l'MC60, e cioè il lock inserito, capito? E come ti ho buttato un ritratto è scattato il lock, no. Va bene, e cosa vuoi a difra? Radio, allora gatto ne vai oramai di radio, cosa ne vai? Ma fa vedere un cazzo, fai da. Siamo in 4. Infatti, no, ma a me mesi si faccia la vicino, me l'ha contenuta. Ho la roba, la buca, come tiene, a pezzi, come tiene. E uso un'altra. Se si faccia l'altra, ma c'è un cosa che posso fare, non la conosco, non mi interessa. E uso una racchina. Ma c'è cosa ti dico? La stessa cosa ti dico, la stessa cosa ti dico, fra, quando si fascia non la conto più, boh, finito. Fra, te lo già la dica io, a meno che non si funziona, tu magari non riesci, non funziona, che è andato in ascolto, me la vengo in ascolto e c'è la biglia in luce. Come l'ha giurato, ho detto che non sei, chissà, se si faccia la base il vostro bar, ma te sei vinto. Sì, è mai difficile che si faccia, devi stare attento ai finali, fra, perché i finali del 706 non sono più in produzione. È molto molto difficile da trovare, quindi stai attento, poca potenza, adoperalo bene, perché io ne ho buttato via uno, buttato via, oddio, l'ho aggiurato a pezzi di ricambio, perché allora più nuova di quella che avevo ricomprato, perché non si trovavano più i finali. Manco la Icon avevo. Capo, quello lì lo sto usando a 4, lo sto usando, 2010 watt mi dà, vanno benissimo, e non aumento. Quando capita che esco con quello, mi accendo quello, sempre con 10 watt. Qua è ottimo, io lo stesso in questa qua la sto usando a 10 watt e 20 modulati. È utile stare in picco, perché la radio soffre molto, il finale soffre, capito? E quindi ha giunto, ma non me ne ha fatto niente. Se devo, ci devo fare due chiacchiere, ha voglia che basta. Infatti, ha voglia, andare pure un baracchino per due chiacchiere, e aiuta appena, adesso che è caldo. Sono 20 volt, com'è da te? Prova? Allora, 20, 30 modulati. Sì, una mezza tacchetta sei sceso. Sei quasi sul 9, vai. Quasi sul 9, modulato lo superi. Capo, dai, ya va bene così. Non c'è bisogno di tirare del corso. No, poco fa vedete che si è aumentato, non me ne ero accorto, ed ero già 70-80 modulati. Pagliscio, infatti questo è il tuo segnale. Pagliscio che ripigniendo un bel. Io ce l'ho sempre a caldo e non aumenta, Qua è stabile, comento una cosa che ho 140. Io sto usando 140, mi fa, non sto usando gli altri radio. 140 sto usando. Sì, sono le migliori radio per la M. No, infatti ho preso sempre di queste perché sono le migliori, sennò mi dispiacevano anche altri modelli, però non sono fatti per la 27 quelle lì, sono male. È come che tu usi il 706, non è fatto per la 27, anche se ti metti la 1060 non penso che riesci a usare bene. No, ma io ho sempre pensato 430, 140, 440 un po' me ne sceso le balle per i difetti che ha, e il C80 per me sono i migliori, 140, C80 e 430 sono radio che non ti lasciano mai a piedi, 440 basta, boh, finito, cioè no, non fa, cioè devi stare sempre accendendolo, sempre, se lo lasci spento, guarda, un mio amico Antonello di Porto Torres, era va vendendo e la legata a piedi, ce l'aveva un po' fermo, l'ha lasciato a piedi. Sì, io conosco Antonello. Beh, così, ma io non lo compro più, io l'ho avuto uno, ma non lo comprerò mai più perché non sai, a meno che non sai da chi lo stai prendendo, che è stato restato, sennò non mi vorrà più, proprio di lascia a piedi, ti lascia. A chi c'hanno quel difetto lì c'hanno. Ma infatti, io l'ho fatto revisionare e poi l'ho venduto. Basta, boh, non ne voglio più TD perché è una radio bellissima, molto bella, però devi stare sempre appresso a questa radio. Ho 140 laggiù, l'ho tenuto io quando lavoravo a Cagliari, mi ricordo, lo tenevo tutta la settimana spento perché io partivo il lunedì mattina e rientravo il venerdì sera. Tutta la settimana spento il 140 e il 430, tutte e due, perché c'avevo 140 e il 430. E andavo a accendere il 440, appena l'accendevo, puntini, si riprendeva dopo un quarto d'ora, 20 minuti. Ma scimmine da guru. Sì, anche il mio faceva così. E poi alla fine sono rimasti puntini e basta. Sono rimasti, infatti alla fine l'ho lasciato. Perché quello è il primo campanello d'allarme, praticamente stanno già mancando le tensioni ai condensatori. O lo riprendi subito e le rifai le tensioni, se no ti si muove in mano, favi dendi mi, ti si muove in mano, come ti ha fatto Antonello, la favi dendi, caputti, mi ha telefonato, cosa puoi fare? Nulla, niente, io non sono capace a mettere a posto una radio del genere, nel modo più assoluto. Infatti metto chi c'è a Sassari, nessuno, mandala fuori. e Rosario cosa ha fatto? Ha fatto prima, ce ne ha comprato un'altra. Perché poi se tu mandi una radio fuori a aggiustarla, già con lui l'hai pagata, poi ci metti altri 200 euro e se vai a venderla poi non la puoi vendere più, non la puoi vendere perché non ricevi mai quei soldi che hai speso. Alla fine ti conviene prendersene un'altra e buona, no? Sì, infatti, così ha fatto. Perché mi ha fatto due calcoli, ci avevo ancora il preventivo, io figurati. Ho detto, mi guarda, per fare quella radio ci voglio 180 euro, ok, senza neanche una lira in meno, 180, metti 15 a andare, 15 a tornare, so a 30, ma vai da due se vuoi fare, no, prova mai un'altra, e così ho fatto. Ecco, guarda, io ho preso il 706, e ho avuto una fregatura, poi l'ho spedito e l'ho aggiustato. E ci ho messo altri 320 euro, oltre 350 che l'ho pagato, ci ho messo altri 320 euro, ci ho messo. E ora c'è da vendirlo, mi sono pubblicato già per 320 euro. Vabbè, se il tribanda non lo puoi vendere più di 350 euro, se il tribanda, se il quadribanda potevi metterci 100 euro in più, 450. E che difetto ti ha fatto? Sì, è il tribanda questo che c'ho io. Mentre stavo parlando, o anche ascoltando, se mi mancava la ricezione, si spegneva la ricezione. Dopo un bel po' ritornava da sola. La scheda audio ti hanno cambiato? Non lo so cosa hanno fatto, però adesso ho visto che sta funzionando benissimo, sta funzionando. E chi l'hai mandata, la CSON? No, l'ho mandata a uno in... adesso non mi ricordo in quale paese era, non me lo ricordo, ma la zona di Bari, quella zona lì. Ma non c'era Braga, no? Braga Vicenza? No, si chiama... qui c'è di dire come si chiama questo qua. Eccolo qua, Vittorio De Santis. Ah, la De Santis, sì, già è bravo. È andato via Bianconi, io con Carlo ci sentiamo ancora che in pensione, figurati, perché proprio per Antonello, poi faccio una chiamata, vediamo se c'è ancora altre fatture, se lo vuole fare, così anche a tempo perso, non è che tanto lui mi creava niente, però almeno era sicuro, invece ho detto Claudio, guarda, come un fratello maggiore, non sto facendo più niente, nulla di nulla, perché mi si è abbassata la vita, perché non ho più la voglia di fare niente, una vita sopra i transistor, le resistenze, e condensatori e balle varie, mi ha detto no, non ne ho più voglia, se non volentieri me l'avreste mandata, te l'avrei fatta anche a tempo perso, a gratis, mi ha detto, perché grazie a Dio non ho bisogno più di far niente, mi ha detto. Capito? E poi una parte dell'attrezzatura ha detto che l'ha venduta a un suo collega, quindi se no me l'avrebbe fatta. Sì. Ma provarci che quello lì l'abbia anche rovinato io, perché l'ho provato, gli ho messo anche quando mi è arrivato, gli ho messo, mi stava dando, perché era al massimo la potenza, e mi stava dando 120, quasi 130 watt mi stava dando. Guardate che l'abbia rovinato anche io, eh. Vabbè, ma c'è la ricezione, lì può essere la scheda audio, perché quello è un digitale. Capito? È tutto SMD, quello è un casino, quello a ripararlo, se non c'è l'attrezzatura non è facile, anche per chi tecnicamente è preparato dovrebbe avere l'attrezzatura per lavorare sull'SMD, capito? Quindi è un casino, provarsi che sia andata in tilt la scheda audio e quindi non ricevevi, ma trasmetteva. No, una volta che si annullava non è trasmettevo e né niente, né ascoltavo, niente. E allora è partito il finale, e allora è colpa tua, per quello che ho detto, siccome l'ho avuto, io lo usavo in HF, non l'ho mai usato, la verità, lo usavo in VNU, perché c'avevo il quadribanda, però lo tenevo sempre a potenza bassa, perché proprio Carlo Bianconi mi aveva detto, stai attento al 706, è una radio favolosa, di dimensioni piccole ma consistenti, mi diceva sempre, è un'ottima radio, un ottimo vice trasmettitore, però usalo a potenza bassa, perché settar come finali è debole, mi ha detto, molto debole sullo stadio finale. Settar come finali è un casino a trovarle, infatti mi uscire sabato. Cappa, sì, anche Vittorio mi ha detto così. Al telefono mi ha detto, dice Franco, guarda, questa radio non la mettere potenza alta, guarda, adesso se ti arriva te l'ho regolata io, l'ho messa a 4, a 4 lasciala, sono 10 watt, dice, non la cugina M, se poi vai in banda laterale, cosa vuoi, puoi aumentare le watt, ma non una M, mi ha detto. Perché dice che quella potenza non è fatta per la M e questa radio ti dà più di 100 watt, tra 120 e 130, invece è vero. Sì, una bella bestiolina, tranquillo. Sì, ma infatti, perché ti ha detto così? Perché sul parlato, no, sai che è benissimo che in SSB i watt oscillano, quindi sono P e B, in AM sono fissi e quella radio non è fatta per parlare in AM, capito? E quindi ne risente moltissimo lo stadio finale. Evidentemente non è raffreddato talmente tanto, se invece infatti è ben quello, ho detto, ma per una modifica non si può fare, ma detto, si potrebbe fare praticamente mettendole una ventola sull'alimentazione del PTT, no? 8 volts. Quando tu schiacci il PTT si accende la prima ventolina che già inizia a raffreddare il finale, capito? Poi quando arriva la temperatura col termostato si accende quella grande, come c'è il 450 della Kenwood. Il 450 è la miglior radio che hanno fatto per questo sistema, perché quando tu schiacci il PTT si accende la ventolina piccola e inizia a raffreddare bene il finale, no? Quando poi arriva la temperatura sua che scatta il termostato, allora si accende la ventola grande, ed è un bel sistema quello. Sì. Infatti questo c'è la ventola sempre andando, cioè, ti dico una cosa, che prima scaldava un bel, da quando me l'ha aggiustato, parlando, ci sono stato anche un'ora parlando, non ha scaldato niente. C'ha dietro, c'ha il coso, non ha scaldato niente, nulla proprio. La mano prima non ci agguantava sopra, e adesso è quasi, non fredda, ma quasi. Ma così devono essere radio, fra. Devono essere così. Una volta che arrivano a quella temperatura, non devono andare oltre. Se la ventolina funziona e se è sufficiente, ad esempio tu prendi questo 140, io non ci ho provato Zesi, no, che mi hanno dato, che ho usato anche io, miei, il coperchio bolliva, bollente, questa è tiepida, normale, e c'è la ventolina in funzione che manco ci sente, ma è nuova, non l'abbiamo mai visto, ci dovevi la verità. Me ne sono capitate tanto in mano, questa era di un radiomotore, non c'era manco un ultimo decimale, mai usato in AM, niente, l'ho messa sotto i ferri, i watt li ho lasciati uguali, 80 watt, non me ne ha fatti nulla, intanto più di quello va benissimo, l'ho sollevato la resistenza variabile dietro la traena, no, quel trimerino che c'è, e appena gli ho dato una puntina in più di Mickey Game, basta, non ho fatto altro, ma è nuova, bra. Scoria Perivella! Luca Gattarella! Ciao Luca! Sì, no, io su questo non lo sento la ventola, vedete che è bella silenziosa. Infatti un giorno ho guardato a vedere se stava funzionando e già sta girando, però è bella silenziosa. In effetti non scalda, però non scalda niente la radio, non scalda. Ehi, qua ci devo mettere l'orecchio sopra io per sentirla. Vabbè, Lugariello, dove sei, giù? Ehi, Acra, stamattina sto provando a mettere il cavetto del rosmetro per la lampadina. Ciao Franco, avanti, ripeto. Cappa, ciao Lu. Segnale 8, radio 5. Sei più alto, luci. Funziona, sì. Ho voglia. Oddio, che è più alto. C'è l'antenna piazzata bene, è tarata bene. Non abbiamo avuto spazio sul tetto, peccato. Se no, andare via a fondo scala, andare via dal Kiwig. Caffa, è abituato a sentirlo 5-6, 5-6. Buonasera a tutti, buonasera. Ehi, ciao Anto, buonasera. Capiamo mangiare della pizza, vengo di due volte. Sapevo a mangiare la pizza. No, io la faccio tutta a spicchi, piano piano. Vabbè, no, io la guardo, la taglio in quattro bacci e me la mangio. Vedi qua. Ciao, ma come fai a tu? Come se uno mi ha messo una buccia? La pizza in quattro bicchi e faccio a mano. Oh, praticamente, io faccio una tecnica, faccio. Ma dai, io vado a tutti e quattro bici, dalla berra all'altra, dalla berra all'altra, me la mangio tutta. Ma ci metto poco a mangiarmela, no? Non so chi va a tirare le longhe, no? Boh, sono abituato così. Capo, è importante consumarla, pure il resto. Il capa. Vabbè, ti arriva su su. Mi arrivi 6 e radio 5. Andava e dai. Capa. Arrivi bene in confronto, dai. Va benissimo. C'è il segnale che ci aveva Luca del Monte prima. Però io sono in un punto basso, sono. E adesso devo decidere, devo mettere il palo più alto, devo mettere l'antenna. Se pongo il palo più alto gli arrivo tu nuovi, buro. Se la sollevi, e più riesci, e quello sì. Diciamo che a forza non è tanto facile, perché c'è Claudio mi arriva a 9, mi arriva, non è che mi arriva di più. Liscio, poi si attacca, arriva di più, però eppure è alto e mi arriva a 9. Allora, ciao Antu, aspetta un attimino, adesso arrivo. Un attimino, 1-1, stazionale, 1-1, poco a poco si muove, là. Un attimino di bianco, là, riprende. Ma tu non hai toccato l'antenna, Luca? No, io non ho toccato proprio niente, cazzo, zero, è sempre così come se l'hai lasciata tu. Va bene, tanto più di quello non possono scendere, che ce l'abbiamo davanti. Oh, raga, io me devo salutare, dai, che anch'io ho la pizza e sta arrivando. Mi ha già telefonato. Ci sentiamo, buona cena a tutti, buona digestione, buon proseguo di quel show, tante cose belle, ok? Il cambio per Antonio e ci sentiamo dopo se coincide, vai Antonio. E capa, saluto un crack, noi ce la risentiamo dopo, ok? Capa, cazzo che avete visto, diciamo, ma io sono lunga, grazie. Ehi, ciao, allora vedo chi perché io, vai che vado a mangiare, ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Luca, ci sentiamo nel prossimino, dai. Ciao! Pensavo avervi già cenato tu, dai, di solito vai alle 8. Ciao, ciao, fra, ciao a tutti, a dopo. Ciao, ci risentiamo.